E allora le 11 e 15 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo a cominciare questo ulteriore spazio redazionale in questo primo lunedì di luglio. Come detto, spazio redazionale dedicato a fascismi, nuove destre e varia umanità. La scusa, diciamo, per questo appuntamento di oggi è l'uscita del libro di Guido Calderon, appunto, su questi temi. E partendo da questa scusa siamo riusciti a rimettere un po' insieme quella che era la redazione di una trasmissione che fino a qualche anno fa si occupava da questa radio specificamente di questi temi, quasi al completo, insomma, quindi la cosa ci fa molto piacere, al di là dell'ovvio effetto vintage. E quindi partiamo dal libro, che insomma rappresenta un pochino un'antologia di tutta una serie di temi che abbiamo trattato nel corso degli ultimi anni, anche per vie traverse, insomma, con Guido nel corso, diciamo, di quest'anno radiofonico. Dal settembre scorso abbiamo analizzato, per esempio, prima le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, poi quelle in Francia, e c'è stato modo e maniera, attraverso queste analisi, di vedere e rintracciare quali erano gli elementi relativi alle formazioni di estrema destra in queste due realtà. Ma insomma il discorso è molto ampio e noi saremo per forza di cose sintetici, per cui io darei immediatamente la parola, insomma, a vecchi e nuovi redattori di questa radio, per cominciare un po' da quelli che sono i temi principali di questa corposa opera che esce oggi, se non vado errato, no? Sì, in libreria. In libreria. Si dice. Perché oramai nel mondo 2.0 in realtà non è che i libri escono sempre in libreria, qualcuno sì, qualcuno no. Si comprano, si rubano, diciamo, comunque si prendono laddove. Ma due parole, insomma, sul senso del libro. Il senso del libro è un po' ricomporre, diciamo, una sorta di viaggio compiuto nel corso degli anni all'interno delle estreme destre e delle nuove destre, con una diciamo con un'idea di fondo, che è quella di non cogliere soltanto gli elementi folclorici o più visibili, diciamo, di questi fenomeni, ma cercare di dare una lettura per quanto si possa, quindi necessariamente in qualche modo superficiale, dell'intera vicenda, diciamo, delle estreme destre, calcolando che negli ultimi anni non soltanto nel nostro paese, ma poi in particolare, insomma, nel resto dell'Occidente, dietro questa etichetta si sono in realtà celati fenomeni sempre molto diciamo fenomeni nuovi, fenomeni diversi. Che ne so, pensiamo a tutta la riflessione sul cosiddetto euroscetticismo, sulle nuove destre, sui populismi, eccetera, che magari non hanno nulla a che fare con l'immaginario o con l'abitudine culturale, le tradizioni culturali ideologiche del Novecento, del fascismo, del neofascismo, eccetera, eccetera, e che però in qualche modo hanno occupato nelle società europee, nelle società occidentali, Stati Uniti compresi, uno spazio del tutto simile, definendosi come formazioni anti-immigrati, puntando molto sull'identità, puntando su una ridefinizione delle forme di cittadinanza, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo il libro cerca di mettere insieme tutti questi elementi, ripercorrendo appunto un po' con la logica del viaggio, quindi una sorta di cartoline da ogni luogo, delle istantanee abbastanza veloci, che ricompongano sia in qualche modo la tradizione del neofascismo, ma soprattutto per capire come si è arrivati alla situazione attuale nel nostro paese o in paesi dove esiste una tradizione, che so, la Germania, più simile rispetto alla continuità col passato, identificando i fenomeni nuovi e poi riflettendo anche su alcune caratteristiche, che sono da un lato l'esplosione di violenza che c'è stata in questi anni e che ha un aspetto drammatico che abbiamo conosciuto anche nel nostro paese, con il ritorno della violenza di strada, ma che ha anche un altro aspetto, che è quello di una trasformazione in senso progressivamente terrorista di alcune realtà. Pensiamo a quanto è accaduto in Germania, dove soltanto di recente si è scoperto che praticamente per il corso del primo decennio degli anni 2000 un gruppo clandestino ha operato proprio collegato alla rete neonazista, uccidendo, compiendo attentati, eccetera eccetera. La vicenda di Breivik in Norvegia sta lì a indicare come si possa arrivare anche a delle vicende assolutamente terrificanti, partendo da un network molto limitato, o dal fatto, come dire, che si possa immaginare oggi un'azione terroristica costruendola intorno anche ad una sola persona, il fenomeno dei lupi solitari, quindi cercando di capire come è cambiato il fenomeno della destra radicale, senza, come dire, pensare che ciò che è diverso dal passato, ad esempio il passato, la trasformazione talvolta dalle formazioni organizzate, dal network veri e propri. Noi siamo abituati in Italia ad immaginare il neofascismo violento, le associazioni e le organizzazioni che lavoravano in rapporto ai servizi segreti, che ne so, negli anni 60-70, Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, fino a fenomeni appunto come quelli di Breivik o, diciamo, con le dovute proporzioni, quelli di Gianluca Casseri, che comunque dimostrano come quella cultura o culture simili, Breivik non si può nemmeno definire un neonazista in senso tradizionale, no? Era addirittura un militante di un partito populista anti-immigrati con un'idea diversa, diciamo, dell'identità, eccetera eccetera. Come però questa cultura possa in qualche modo contenere in sé i germi anche di fenomeni che alla fine finiscono per apparire simili a quelli del passato, quanto agli effetti, diciamo, alla stagione dello stragismo è stata rimpiazzata in qualche modo nell'ultimo decennio in Europa, da Berlino a Mosca, da una stagione di violenza indiscriminata contro gli immigrati, spesso anche con connotati razzisti. E poi ci sono i territori selvaggi, potremmo dire, degli Stati Uniti, laddove quest'ultimo decennio, poco meno, con l'elezione di Obama e poi la rielezione, ha fatto riemergere una serie di fantasmi, ma anche, siamo nei giorni dell'approvazione della riforma della legge sull'immigrazione negli Stati Uniti, ha fatto anche emergere qualcosa di un po' più simile all'Europa, cioè questo rifiuto proprio per una terra fatta da, diciamo, da generazioni, da stratificazioni di cittadini arrivati da un po' ovunque nel mondo, questo rifiuto dei nuovi arrivati, in questo caso i latinos, eccetera. Queste sono alcune delle immagini. L'idea comunque è proprio quella di ricostruire quest'album di famiglia, considerando che la famiglia sia molto più larga di un passato, no? Non soltanto ciò che un tempo si identificava come estrema destra, ma anche tutta la trasformazione politica e culturale che attraversa le società occidentali e che spesso costituisce, diciamo, l'humus di fondo su cui poi crescono i fenomeni politici dell'estrema destra, anche se a prima vista e all'inizio il percorso non è esplicitamente quello. Ecco, i fili neri che reggono un po' questo album di famiglia, dov'è che si possono rintracciare, visto che, insomma, stiamo parlando di un'area geograficamente anche temporalmente molto vasta, che a prima vista magari può anche sembrare estremamente eterogenea, però, insomma, ci sono dei minimi comun denominatori che possono valere per tutte le formazioni, o almeno la maggior parte delle formazioni di questo tipo, oppure bisogna sempre fare attenzione, diciamo, analizzare caso per caso o realtà geografica per realtà geografica? Ma direi che in realtà si possono identificare dei filoni, volendo esprimersi così, nel senso che esistono delle coordinate generali che hanno a che fare poi però ovviamente con gli equilibri politici, le storie, le culture e le tradizioni di ciascun paese. Vi è ad esempio un fenomeno evidente che forse nel nostro paese sta arrivando all'epilogo, ma che è quello, diciamo, della crescita di una nuova estrema destra all'ombra di nuovi equilibri di potere. Spesso all'origine c'è la trasformazione delle forze moderate o l'invenzione di una vera e propria nuova destra, quello che è accaduto in Italia a partire dal 94 con Berlusconi, eccetera, all'ombra di quel fenomeno di massa con forti connotazioni culturali di destra molto molto determinata, può crescere, come è accaduto nel nostro paese, anche una nuova sottocultura neofascista più socialmente diffusa, ed è una tendenza. In parte si è visto qualcosa in Francia negli ultimi mesi, dopo gli anni di Sarkozy, con la crescita di una nuova destra radicale. Vi è generalmente tutto ciò che si è prodotto dopo l'11 settembre in termini di riposizionamento, potremmo definirlo, delle culture xenofobe che hanno trasformato gli immigrati in islamici tout court, facendo del problema della convivenza con l'Islam il vero problema, diciamo, ponendo questo come elemento problematico al centro delle società, che attraversa, diciamo, tutto l'Occidente, passando dai partiti populisti a, appunto, le destre radicali e più esplicitamente neonaziste, i gruppi violenti, il fondamentalismo religioso, eccetera eccetera. Ci sono correnti potenti come le correnti, diciamo, che hanno a che fare col revisionismo storico o con la negazione della Shoah. Vi è il riemergere nella stagione, e stiamo parlando degli ultimi anni della crisi, dell'antisemitismo come lettura, diciamo, complottista della complessità del mondo. Cioè, ci sono una serie di filoni che non necessariamente trovano espressioni in ogni paese, che però in qualche modo possono essere identificate come le correnti culturali dentro le quali poi si abbeverano e si muovono fenomeni però molto diversi. Ecco, se c'è una cosa che veramente credo si possa dire, è che mai come negli ultimi 10-15 anni si è, diciamo, le porte tra le culture, e quindi anche poi tra le forme politiche che hanno assunto queste culture, della destra conservatrice, della destra radicale, del neofascismo, del fondamentalismo religioso, sono diventate delle porte girevoli, cioè si aprono in una direzione piuttosto che nell'altra, spesso offrendo o una legittimazione politica, è il caso italiano evidente, insomma, quello che è accaduto all'ombra del decennio del ventennio berlusconiano, oppure, diciamo, un humus culturale e politico che comunque aiuta. È successo in Francia, è successo in Gran Bretagna con la denuncia della crisi del multiculturalismo, è successo negli Stati Uniti con la trasformazione in senso radicale di pezzi interi del Partito Repubblicano. Cioè, si sono aperte delle porte. Tutta la critica, diciamo, alla incapacità dell'Occidente di gestire la presenza musulmana nei nostri territori, che non ha riguardato l'estrema destra soltanto. I testi di Huntington venivano dalle più grandi, il famoso il testo dello scontro di civiltà veniva dalle più grandi università dell'Occidente. Cioè, all'interno, diciamo, che in qualche modo l'estrema destra ha cominciato ad interpretare ancora più che il passato una parte della crisi profonda dell'Occidente, talvolta arrivando addirittura a candidarsi a interprete di possibili uscite dalla crisi dell'Occidente, ovviamente uscite di segno regressivo, di segno autoritario, di segno razzista, di segno identitario, e quindi trasformando un pericolo che forse un tempo era sì minaccioso, ma più sul piano violento che su quello politico, in un pericolo politico di primo piano, perché oltre ad essere, diciamo, minaccioso dal punto di vista, appunto, della violenza, può anche diventare interprete del malessere delle società. Guarda, proprio intanto un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Intanto vorrei ripartire da queste ultime cose dette, perché, diciamo, tocca un po' anche il filo delle, tocca un po' i punti su cui fondamentalmente ci eravamo lasciati dai microfoni di questa radio nei nostri ultimi appuntamenti con l'osservatorio sull'estrema destra che curavamo, e a partire dal fatto di quanto sia difficile poi ricondurre questa molteplicità di fenomeni che sul piano globale poi si manifestano in espressioni così tanto anche antitetiche. Si passa dal paganesimo del diffuso tra i neonazisti mitteleuropei al fondamentalismo religioso che conosco e conosciamo bene qua in Italia, legato all'estrema destra neofascista, ma che non abbiamo problemi anche a ricondurre alle forme del tradizionalismo islamico, del fondamentalismo ebraico che ha dettato per anni l'agenda politica di Israele. E che in qualche maniera possiamo in qualche maniera poi trovare, su cui trovare poi una sintesi, ovviamente estremamente difficile, intorno a un'opzione politica così chiara. È giusto che questo libro, che poi devo dire la verità, avendo preso per la prima volta in mano poco fa, ho avuto solo modo di sfogliare l'indice, però mi sembra che cerchi di cogliere questa complessità anche proprio spezzando e tenendo, diciamo, anche separati punti di vista e raccogliendoli in base anche alle loro espressioni materiali o politiche, quindi la violenza di strada, la violenza più organizzata, la struttura ideologica che permea poi lì in tutto quanto le materializzazioni politiche di questi fenomeni, che però possono essere tranquillamente ricondotti sia un ciclo lunghissimo che su scala globale parte probabilmente da un periodo che, insomma, già dai primi anni 2000 era abbastanza evidente in alcune zone del paese, del pianeta. In Italia, appunto, già ai primi anni 90 abbiamo dei passaggi importanti però nella genealogia dell'identitarismo e del fascismo nelle sue varie declinazioni, nostrano, ma che dal 2007-2008, dal primo dispiegarsi della crisi economica globale, ha mostrato i suoi aspetti forse più interessanti. Da una parte, ieri per esempio l'Egitto ha vissuto una giornata importante, anche che potrebbe essere letta alla luce di questo scatenarsi di potenzialità aggregative e di consenso dell'identitarismo, in quanto comunque le piazze, i milioni di persone ieri sono scese in piazza in Egitto, si sono mosse dopo un anno di governo dei Fratelli Musulmani in un paese che si era comunque mobilitato in maniera trasversale, ampia ed estremamente potente contro un altro regime che durava autoritario, per quanto poi in apparenza democratico, che governava ormai da decenni il paese, e da un sistema politico che lo governava forse da ancora più tempo, e quindi che un avvicendamento politico in questa fase non è scontatamente in mano alle piazze, per quanto partecipate e dirompenti, non è scontatamente una via d'uscita che rappresenti un'alternativa reale alle forme di a una maggiore partecipazione, una maggiore apertura, una maggiore liberalizzazione, per esempio nel caso dell'Egitto, delle relazioni di genere, delle relazioni economiche, in generale della società. All'inverso, ma sempre nel quadro generale della crisi, possiamo mettere anche il conflitto sociale altissimo che si è dato negli ultimi settimane in Turchia. Lì siamo al contrario, è un paese con un più della crescita rispetto ai meno che hanno caratterizzato l'Occidente, e l'Occidente europeo, come lo possiamo intendere, insomma, lo spazio comunitario consolidato, ma anche lì apparentemente sembra che siano ancora essere messe in discussione modelli di governo di piazza. Abbiamo avuto una grande visibilità della critica alla politica di Erdogan, ma leggendo le cronache di quelle giornate abbiamo visto prendere posizione anche gli islamisti, scendere in piazza con ruolo squadrista di intimidazione delle piazze, non solo i corpi di polizia ma anche non solo, per esempio, abbiamo visto partecipare le tifoserie di calcio più delle squadre più conosciute, ma leggendo anche gli aggiornamenti in lingua inglese si potevano in alcune città come Adana, ad esempio, le tifoserie più marcatamente tradizionaliste e di ispirazione iconografia islamista tradizionalista hanno cercato di intimidire i manifestanti, hanno partecipato direttamente alla repressione. ma anche in Grecia la conflittualità che negli ultimi 5 anni contro le politiche di austerity si è mossa in quel paese non ha comunque creato un anticorpo così forte per impedire che Alba Dorata avesse una sua partecipazione alla politica, alla vita politica parlamentare. Quindi, come dire, sicuramente una valutazione positiva va da un tentativo di cercare di dare una panoramica. Non so se per esempio ti è sembrato di riuscire a questo punto di provare a tirare anche le somme e provare a dare una sintesi di tutta questa molteplicità di relazioni politiche, culturali e di tensioni che apparentemente sembrano aver dato una nuova longevità in generale a questi fenomeni di identitarismo e di populismo che per l'Europa, appunto, dell'Europa comunitaria consolidata, ancora può essere definito intorno alla chiave di lettura del fascismo per molti aspetti, per l'Italia nella sua tradizione repubblichina, terzo posizionista in alcuni casi, stragista in altri, insomma, che porta poi magari a essere sintetizzata intorno, anche è stata negli ultimi anni sintetizzata e sussunta dal partito, dal PDL in molte sue espressioni o dalla Lega, ma che invece in altri contesti può addirittura agitare un antifascismo nazionalista lì dove per esempio la difesa della propria identità viene vista come base per tenere fuori dal proprio recinto migranti o omosessuali o altre, ovviamente altri, ovviamente mille virgolette che radiofonicamente vanno messe, diversità che mettono in crisi un sistema di valori. Ma diciamo che una cosa forse si può dire, che se il fenomeno, diciamo il ritorno del radicalismo di destra in Europa arriva in qualche modo, emerge con la grande trasformazione che si è avuta all'inizio degli anni 90, la caduta del muro di Berlino, la ridefinizione, diciamo, della divisione in qualche modo bipolare del mondo, all'ombra della quale l'anticomunismo radicale dell'estrema destra era stato arruolato non soltanto in Italia e non soltanto in funzione stragista, insomma pensiamo al maccartismo, pensiamo a cosa è stata la cultura conservatrice in parte dell'Occidente. È chiaro che quello che sta accadendo oggi e che è accaduto lungo gli anni 2000 in qualche modo ha costruito un terreno favorevole a che oggi si possa immaginare anche un'interpretazione da destra della crisi. Questa mi sembra una delle caratteristiche. Allora, volendo insomma definire per chi ascolta, l'idea per esempio di questo libro è di offrire degli strumenti a chi cerchi oggi di comprendere o di riflettere su cosa le destre, pluralmente intese, parliamo ovviamente non soltanto di forze timidamente conservatrici, ma specificamente di forze, diciamo, neofasciste in particolare, ma non solo, propongano come uscita dalla crisi, perché ovviamente, diciamo, l'impatto di questi fenomeni oggi accade e cade dentro lo scenario della crisi, acquistando quindi una forza ulteriore e talvolta ponendosi anche come candidato ad interpretare un malessere sociale che tradizionalmente sarebbe andato verso forze progressiste, verso movimenti popolari, laddove questo non accade, o anche, come in Grecia, insomma il caso, questo accade, c'è però spazio anche a un'interpretazione di tipo razziale, di tipo xenofobo, di tipo identitario. È chiaro poi che ovviamente il discorso sul piano complessivo internazionale si gioca anche su altri terreni, e che c'è un rapporto molto stretto tra quello che in questi anni è stato definito fondamentalismo religioso o nuove forme appunto dell'identità e l'estrema destra occidentale. Il libro si concentra anche perché sono quasi 500 pagine, diciamo già solo di questo, sulla vicenda dell'Occidente. Ci sono dei rimandi espliciti, che ne so, in particolare su quella che è la vicenda del negazionismo, per il ruolo che hanno assunto alcune realtà del mondo medio orientale, in particolare Teheran, che è diventata nell'ultimo decennio la capitale dei negatori dell'Olocausto. Del resto lo stesso Ahmadinejad aveva più volte, diciamo, candidato il proprio paese, no? come nemico della bugia dell'Olocausto, eccetera eccetera. Ma insomma, l'idea è proprio questa, l'idea è quella di capire come le nuove destre e le estreme destre, cioè ciò che è germinazione diretta, potremmo dire, del Novecento, e ciò che è costruito ed è nato e si è sviluppato all'interno delle nuove contraddizioni sociali negli ultimi anni, come interpretano questa fase e come si possono candidare ad interpretare le possibili uscite da destra dalla crisi, che è probabilmente una delle chiavi, una delle partite che si giocano oggi in qualche modo, cioè tra la possibilità che dentro la crisi si aprano nuovi spazi di cittadinanza, di riconquista, di libertà e di diritti, oppure che invece proprio la crisi serva in qualche modo a chiudere delle porte e a rendere questo mondo più stretto, più buio, più pericoloso e sicuramente meno libero. Questa è una delle chiavi che la destra radicale si candida ad interpretare e che il libro in qualche modo cerca di raccontare, andando, come dire, dai fenomeni del populismo scandinavo, che hanno annunciato già alcuni decenni fa con i primi partiti antitasse una critica che apparentemente sembrava parlare, come siamo abituati ormai a pensare anche da noi, in nome del cittadino, e che in realtà, smontando le ragioni stesse della convivenza civile, del welfare, ciò che sta alla base, diciamo, della capacità di stare insieme, poneva le basi per una spinta molto radicale che anticipava la xenofobia, ma sulla quale la xenofobia, il ciascuno padrone a casa propria e il ciascuno a casa propria, no? Cioè il rigetto pieno, si sono poi costruiti più tardi. Da questo fino appunto agli episodi, ai fenomeni, che ne so, pensiamo alla realtà del nuovo nazionalismo russo, che è una delle chiavi, tra virgolette, geopolitiche della crisi, no? Ne sentiamo parlare costantemente, questo nuovo ruolo che si è ritagliata la Russia a partire dalle guerre caucasiche fino alla ridefinizione interna nazionalista del mito di Putin, eccetera eccetera, dove la xenofobia e i movimenti della destra radicale, in questo caso esplicitamente neonazisti, tutto il circuito skinhead, bonez, eccetera eccetera, le sottoculture musicali legate a questi fenomeni, sono diventati dei fenomeni di massa, sono diventati dei fenomeni, come dire, da la Sanremo, no? Della musica neonazista, cose che in Occidente, in qualche modo in Occidente, nell'altra parte dell'Europa, si sono viste con minore forza. E tra questi estremi, no? Cioè, tra queste diverse polarità, si gioca oggi la possibilità di quello che sta accadendo sotto i nostri occhi. Il libro si candida appunto ad offrire una fotografia il più possibile aggiornata. Ci abbiamo tenuto, insomma, a poter ad esempio mettere proprio con la necessaria brevità, visto che si stava chiudendo il libro e si stava, come si dire, si suol dire, insomma, andando in tipografia, le ultime notizie arrivate da Parigi all'inizio del mese di giugno, con la morte di Clément Méric, ucciso da una banda di skinhead per le strade di Parigi, non solo per la gravità di quella vicenda, che, come ci dice l'ultimo decennio italiano, è purtroppo quasi nelle cose per il riemergere di questa violenza fascista. Pensiamo a Dax, pensiamo agli altri morti che ci sono stati a Roma piuttosto che a Verona in questi anni, appunto la violenza di strada del neofascismo, fino alla vicenda di Firenze di cui avevamo parlato prima, cioè questo tipo di fenomeni, ma anche come un portato, il caso francese, di una campagna di odio cresciuta su un tema particolare come può essere quello del matrimonio per tutti, ma che in qualche modo ha visto una radicalizzazione fortissima all'interno di quella società, che ha reso in qualche modo più possibile che anche la violenza dell'estrema destra si esprimesse. Quindi l'idea è proprio quella di comprendere diciamo, tra le posizioni di massa, tra le forme politiche e culturali che hanno, diciamo, una in qualche modo tentano anche di costituire un'egemonia dentro le società, come anche i fenomeni più radicali, più estremi, più violenti, talvolta collegati, talvolta meno, possano però saldarsi e possano rivendicare una sorta di drammatica legittimità all'ombra di questa egemonia culturale delle destre. Questo è un po' il tentativo, e non è quindi soltanto una fotografia, come dire, per capirci, dei gruppi dell'estrema destra, è l'idea di capire come stiano dentro la società e che cosa rappresentino nella relazione con quelle società, descrivendo lo spettro politico, lo spettro del dibattito, lo spettro, diciamo, delle questioni che vengono agitate. Anche perché poi ci sono dei fili neri comuni, ma ci sono anche delle risposte estremamente variegate ed eterogenee, rimanendo appunto nell'ambito, diciamo, dell'Unione Europea. Abbiamo parlato tante volte del caso greco e di quello francese. Da un lato formazione, almeno una formazione politica come Alba Dorata, che sembra essere più classicamente neofascista, quindi con tutto il suo portato di odio contro gli immigrati, contro chi ruba il lavoro alla forza lavoro autoctona, eccetera eccetera. Dall'altro, in Francia, con un Front National che in alcuni frangenti ha tentato di candidarsi come un succedaneo della sinistra, in particolar modo in zone dello Stato francese di forte impronta operaia, almeno di vecchia impronta operaia, dove la sinistra tradizionale era un tempo forte. Quindi, insomma, in che maniera si possono mettere insieme queste risposte, e c'è contraddizione fra queste risposte all'interno della nuova destra oppure no? Beh, diciamo che si tratta anche di capire come sono affrontati i temi sociali. Nel libro, ad esempio, si racconta la sortita di Marine Le Pen in questa zona del nord della Francia, questa ex zona mineraria, che è diventato un po' una sorta di museo dell'archeologia industriale. Prima hanno chiuso le fabbriche, prima hanno chiuso le miniere, poi hanno chiuso le fabbriche, poi le intere aree del paese sono diventate una sorta di deserto sociale, una sorta di museo all'aria aperta di ciò che è stata, diciamo, il secolo dell'industrializzazione dell'Occidente. È chiaro che lì c'è una trasformazione dei temi sociali in temi fortemente identitari, che non è più soltanto, come poteva accadere nei primi anni, la denuncia del lavoro rubato, no, da parte degli immigrati, insomma, siamo a quel tipo di stereotipi, ma poi via via si costruisce anche in una denuncia delle politiche europee. L'euroscetticismo non come quello che viene considerato come euroscetticismo, non come critica, diciamo, del malessere e della crisi sociale che l'Europa, l'Unione Europea non riesce a gestire, ma invece come critica dell'impoverimento dei poteri dello Stato-nazione, no? Quindi in qualche modo c'è una trasformazione dei temi sociali in temi via via sempre più nazionali e via via sempre più legati all'idea che ci siano ristrette elite che decidono del bene comune, e in qualche modo dietro queste ristrette elite si celino spesso nemici invisibili che però hanno il volto o l'alone dei vecchi nemici, no, dell'identità nazionale, quindi le correnti cosmopolite, come si definivano una volta, come venivano chiamati, no, ai tempi, l'internazionale ebraica. Quindi riemerge nella critica dell'Europa delle banche, eccetera eccetera, qualcosa che ha molto a che fare con quel passato, il rivendicare il lavoro francese fatto dai lavoratori francesi, che fu peraltro tragicamente anche uno slogan del PCF qualche anno fa, insomma. Quindi c'è una rielaborazione. All'ombra di tutto questo, ovviamente, c'è anche il diffondersi di un nuovo radicalismo di destra, all'ombra del Front National, perché in qualche modo il Front National banalizza alcuni temi, cambia di segno nell'era della crisi, cambia di segno dalla lettura della crisi dai temi sociali ai temi nazionali, introduce una sorta di visione, come potremmo dire, una sorta di lotta di classe che non è più verticale ma è orizzontale, denuncia delle elite piuttosto che denuncia delle responsabilità economiche, è trasformazione diciamo di ciò che produce la forma economica, la forma produttiva in denuncia dei singoli, quindi ci possono essere i padroni cattivi ma non c'è mai un'idea di redistribuzione o di trasformazione della lettura dell'economia, e sono ovviamente dei codici interpretativi che in una situazione estremamente difficile, segnata profondamente addirittura da più generazioni, perché quando parliamo di crisi in alcuni territori parliamo di una crisi che arriva dopo la fine comunque delle forme produttive, cioè laddove insomma l'abbiamo conosciuto nel triangolo del nord Italia, insomma pensiamo come sono cambiate città come Milano e Torino, Porto Marghera eccetera eccetera, laddove già è finito un ciclo produttivo, la crisi, come dire, ha un ulteriore effetto devastante, no? Perché si accomoda, si posiziona in uno scenario già devastato. E quindi, come dire, queste interpretazioni cambiano di segno la lettura, offrono in qualche modo una lettura della crisi e anche candidandosi, per così dire, a difendere i più deboli con un'ottica specifica, quella che i più deboli siano nazionali, cioè siano ovviamente autoctoni, francesi, bianchi, eccetera eccetera. L'elemento della religione addirittura viene usato, visto che stiamo parlando della Francia, è un elemento caratteristico che però insomma abbiamo visto ovviamente anche nel nostro paese, la denuncia per esempio dell'immigrazione musulmana come un'immigrazione che ridurrebbe i diritti, no? Marine Le Pen è una che dice in alcuni quartieri del nord, parla di Roubaix per esempio, una città del nord non lontana insomma dal Belgio, sempre nella stessa area diciamo in cui il Front National lavora di più, quella appunto dell'ex zona mineraria, dice in questi quartieri è più difficile essere donna, è più difficile essere ebrei, no? Che interesse ha l'estrema destra per dire questo, per dire c'è un problema di pressione culturale, pressione ideologica, perché l'Islam non è una cultura, non è una religione, è una cultura ed è una politica, quindi in quei quartieri essere diversi dai musulmani è pericoloso, e apprendo qui paradossalmente, vista la tradizione del Front National, diciamo il padre di Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen insomma è noto per le sue frasi, è stato anche condannato più volte, le sue frasi di sapore negazionista nei confronti della Shoah, definita da lui le camere a gas come un dettaglio della Seconda Guerra Mondiale, una delle frasi più famose, candidarsi a raccogliere anche altri consensi, ad esempio quello di una parte di una comunità ebraica spaventata dalla crescita dell'Islam radicale nelle banlieue. È accaduto anche questo, con numeri in realtà molto enfatizzati dalla stampa ma molto, molto meno consistenti, sostanzialmente irrisori dal punto di vista delle percentuali di voto. Cioè tutti elementi che mostrano come diciamo ci sia anche una capacità di tenere insieme delle contraddizioni, o quelle che apparentemente possono apparire come delle contraddizioni, e soprattutto per concludere diciamo dal punto di vista della fotografia, quella forse per la prima volta di poter indicare una visione complessiva della società, cioè forse quello che è veramente accaduto in questi anni è che le vecchie estreme destre sostanzialmente se la cavavano riproponendo un'immagine mitica del passato, questa pluralità di destre nuove ed estreme di cui stiamo parlando oggi propone una visione del futuro, per quanto a noi possa apparire paradossale, terribile, orribile, è però questo che oggi è in grado di conquistare alcuni settori, spesso i più deboli, ma non necessariamente i più deboli nelle società occidentali. C'è l'idea non dell'evocazione soltanto, come si dice a volte un po' superficialmente, di quando si stava meglio, no? Un passato mitico che più o meno ogni paese ha conosciuto, ma qualcosa che sì, magari ha degli emblemi presi da un passato mitico, ma che in realtà proietta tutto questo sul futuro, dicendo ecco come potremmo essere o come potremo essere se avremo i consensi, quello che dicono i partiti anti-immigrati che a volte non si presentano, non so, c'è il caso del partito dei veri finlandesi che non rientra nemmeno nella categoria estrema destra, è un partito populista di nuova destra che punta sulla la denuncia della tassazione, in parte sulla denuncia dell'immigrazione, sulla riduzione delle leggi che tutelano in Finlandia la minoranza svedese, queste cose qui, che dice: noi siamo un partito operaio senza il socialismo. Il problema è che, insomma, l'abbiamo già sentita questa. Genere, no? L'abbiamo già sentito. E questo è un po' il problema. È un mescolare in continuazione elementi, però non indicando necessariamente il ritorno indietro quanto una proiezione rispetto al futuro. Due domande. Dalla prima in parte già hai risposto, era scorrendo l'indice, appunto si scorgono delle formazioni e dei filoni diversissimi, in parte anche antitetici. Penso a tutto quello che sono i partiti piuttosto che i gruppi antisemiti in Europa dell'Est, che c'ha apparentemente anche poco a che spartire come tematiche e come approcci rispetto a quello che per esempio ci sta in Nord Europa, anche a tutto quel filone che fa delle, che cavalca nelle, in qualche modo, battaglie civili come Pim Fortuyn, che in qualche modo fa dell'islamofobia una specie di cavallo di battaglia in virtù della difesa per esempio anche dei diritti delle donne o degli omosessuali e quant'altro. E quindi in parte volevo chiedere quanto si potevano parlare queste realtà tra di loro e quanto hanno un territorio comune su cui si possono incontrare a livello sia del Parlamento europeo che di quant'altro. E poi, siccome hai citato anche la vicenda francese di Clément Méric, in qualche modo quella vicenda lì, nelle sue risposte istituzionali, ha fatto vedere una risposta che ha degli elementi di diversità rispetto al passato e rispetto a quello che, a cui siamo stati abituati, specialmente in Italia, negli anni scorsi, nel senso che anche la risposta della sinistra istituzionale, il dibattito pubblico, ha espresso in qualche modo una consapevolezza di quello che stava succedendo, con mille sfumature sicuramente eccetera, diversa dal passato. Sono state messe in qualche modo sotto processo non soltanto l'atto di violenza in sé, ma anche le culture politiche che l'hanno prodotto. È stato incalzato il Front National rispetto appunto alla cultura politica che esprime, alle coperture che ha espresso e quant'altro. Quanto secondo te questa consapevolezza diversa esiste anche in Italia, che è un paese dove invece dopo tutto quello che è stato anche il portato di violenza e quant'altro dei decenni passati, in qualche modo sembra ci sia, cioè, in senso dagli anni del veltronismo ma anche successivamente, una specie di sdoganamento, di equidistanza, per cui in realtà poi chiaramente c'è la stigmatizzazione della violenza, dell'atto di violenza singolo quando succede eccetera, ma non viene mai messa in discussione in qualche modo la cultura politica che lo esprime, l'idea stessa del neofascismo o quant'altro. Ma diciamo, rispetto ai contatti tra le realtà diverse, il libro in realtà nella fase di lavorazione aveva un sottotitolo che recitava Viaggio nella nuova internazionale nera, proprio a voler indicare, in discontinuità con quella che era, diciamo, la logica delle vecchie internazionali nere, cioè delle dei network appunto veramente organizzati, l'idea che la nuova, quella che si potrebbe definire come la nuova internazionale nera, è fatta sì di contatti, ma è fatta soprattutto di una contiguità culturale, politica, di lettura delle cose, mentre magari le componenti organizzative transnazionali forse sono oggi più deboli che in passato. Ma ovviamente esistono delle realtà, esistono dei coordinamenti a livello del Parlamento europeo, esistono da Forza Nuova al Front National, vari livelli, che siano quelli dei gruppi, che ne so, appunto sappiamo i collegamenti tra Forza Nuova e Alba Dorata, piuttosto che il British National Party. Giorni fa, insomma, ne abbiamo già parlato, insomma, dai microfoni di Onda Rossa, Roberto Fiore era in a Damasco, ospite del governo siriano, dopo essere passato per il Libano, probabilmente per ospitato dagli Hezbollah, insieme a Nick Griffin del British National Party e ai nazionalisti del Vlaams Belang, in un viaggio organizzato, una crociera, diciamo, di vacanze, che probabilmente partiva da contatti con il Parlamento europeo, quindi con gli eletti del Parlamento. Quindi c'è un livello istituzionale dove anche gruppi della estrema destra, minoritari dal punto di vista numerico, come Forza Nuova, però hanno accesso. Ci sono ovviamente le reti Bonetz, l'abbiamo visto qualche settimana fa con quello che è diventato il circuito, la tappa milanese del circuito Armer Skin, numericamente ininfluente, ma come potrebbe dire insomma qualcuno da Milano, assolutamente preoccupante, visto che a Milano c'è stata un'impennata di aggressione e di violenze negli ultimi anni, che probabilmente si deve proprio a questo ambiente. Quindi ci sono delle realtà, ci sono però soprattutto delle discontinuità. Pensiamo a un partito come Jobbik, che è il partito ungherese che sostiene di fatto il governo di Viktor Orban, quindi un partito che ha un peso specifico, anche se nell'ombra, rispetto alla scena politica dell'Ungheria. È un partito apertamente pro-iraniano, con una propria visione, diciamo, adesso è inutile dilungarsi, abbastanza bizzarra, di un mito, di una sorta di palingenesi dei popoli euroasiatici, che parte dai magiari e arriva ai persiani. Insomma, adesso lasciamo perdere, diciamo, le fantasie, il circo di tutto questo, però quello è un partito assolutamente di estrema destra, che poi è partner con formazioni tradizionalmente neofasciste e antimusulmane. Sono state in passato Forza Nuova, sono state in passato il Front National francese, ovviamente con diversi livelli, no? Quindi c'è tutto questo. Non potrebbe essere partner del Partito della Libertà di Wilders, anche se poi sugli immigrati hanno una diversa concezione della geopolitica. Magari sugli immigrati dicono le stesse cose, solo che gli immigrati in Ungheria, e non sono immigrati perché in realtà sono cittadini ungheresi, sono i Rom, però svolgono quella funzione di pericolo sociale, vengono agitati come quelli che minacciano l'integrità esattamente della madre patria, come i musulmani minacciano l'identità olandese o l'identità dei diritti dell'uomo olandesi. Quindi torniamo all'Islam agitato come pericolo. Ma rispetto alla vicenda francese, la cosa interessante, diciamo, della risposta dello Stato francese è che in qualche modo sono accadute due cose che sono sostanzialmente in parallelo. Nei giorni in cui il governo francese, il Ministero degli Interni, ha annunciato di voler mettere al bando, ha aperto, diciamo, una procedura, diremmo così, per mettere al bando alcuni gruppi coinvolti, alcuni a cui apparterebbero gli assassini, l'assassino di Clément Méric, ma anche altri non coinvolti, ma coinvolti nelle violenze di stampo neofascista che hanno accompagnato le manifestazioni contro il matrimonio per tutti. Negli stessi giorni in cui accadeva questo, alcune formazioni hanno anche, tra l'altro, deciso di anticipare il possibile decreto di scioglimento, autoscioglendosi, forse per potersi poi più velocemente riorganizzare, ma parliamo di formazioni ultraminoritarie, qualche centinaio di militanti, qualche migliaio, a essere molto generosi, in tutta la Francia. Quindi un'estrema durezza dal punto di vista della politica ufficiale nei confronti, subito, sia Hollande sia il presidente presidente del Consiglio francese hanno subito detto, diciamo, a poche ore dalla morte di Clément, bisogna agire per fermare questi gruppi violenti, bisogna agire per mettere al bando il neofascismo. Negli stessi giorni è accaduto che in un'elezione locale dove si rimpiazzava il ministro Cahuzac, il ministro socialista che si è dovuto dimettere perché si è scoperto aveva conti dalle Cayman alla Svizzera e bla bla bla, quello che era tradizionalmente il cosiddetto fronte repubblicano, cioè quando c'è un candidato del Front National tutti gli altri, destra e sinistra confusa, si mettono insieme, è caduto, nel senso che al ballottaggio sono andati un candidato del Front National e un candidato dell'UMP, cioè del partito centrista centrodestra, poi risultato vincente il partito di Sarkozy. Il problema è che l'appello del Partito Socialista a fare un fronte repubblicano contro l'estrema destra è stato molto debole. È stato fatto da Parigi, ma i socialisti locali hanno detto: ma noi non votiamo uno di centrodestra che poi tanto fa gli accordi con l'estrema destra. Come a dire, noi non votiamo due simili, se dobbiamo scegliere tra questi due andiamo non al mare, perché lì non c'è il mare, però, insomma, andiamo in collina, in montagna. E l'UMP, cioè il partito di centrodestra che era direttamente coinvolto nel ballottaggio, Addirittura gli esponenti nazionali del partito non hanno mai nominato il Front National nei loro appelli al voto. Ci hanno detto: sostenete il nostro candidato, ma non sostenete il nostro candidato contro i razzisti. Il risultato è che il candidato del Front National ha perso quell'elezione, ma è aumentato tra il primo e il secondo turno di 7.000 voti, cioè ha sostanzialmente quasi raddoppiato i propri voti, non riuscendo a vincere, ma dimostrando quello che poi sia Libération che Le Monde, che i commentatori francesi hanno celebrato come la fine, drammaticamente, del fronte repubblicano. Cioè in Francia l'appello a dire non facciamo passare gli estremisti di destra oggi non prende più, e quindi nello stesso momento in cui si diceva mettiamo al bando i gruppi radicali dell'estrema destra, in qualche modo il Front National ha raggiunto quello che Marine Le Pen infatti ha presentato come una sconfitta che ha il sapore di una vittoria. Cioè in realtà noi perdiamo questa elezione, ma dal punto di vista della nostra progressione nella società francese probabilmente abbiamo sempre più chance. Questo è un po', sono un po' i paradossi, no, delle vicende politiche, perché chiaramente si mette l'accento sull'aspetto estremista di alcune formazioni, laddove questo non è visibile perché non c'è la violenza e non c'è il linguaggio che rimanda al Terzo Reich, a Vichy, eccetera eccetera. Quella roba passa totalmente come invisibile, c'è una banalizzazione. Oggi il vero risultato è che il passaggio da una generazione all'altra della famiglia Le Pen e la trasformazione del linguaggio in senso più sociale e meno identitario, anti-immigrati, tout court di Marine Le Pen, ha reso il Front National un partito normale. Solo che noi nell'Italia, diciamo, del post Berlusconi siamo abituati a tutto, i francesi lo sono un po' meno, non erano così abituati a considerare diciamo il Front National come noi siamo finiti per considerare la Lega o Alleanza Nazionale, no? Ma come qualcosa di un po' sporco da tenere un po' che, insomma, nei salotti buoni della politica non fa chic ospitare. E le cose stanno cambiando. Bene, noi siamo giunti quasi in conclusione. Io concluderei, diciamo, con una nota biografica, nel senso la trasmissione che si occupava specificamente di questi temi, sono temi di cui chiaramente ci si occupa sempre, insomma, ma quella vostra era un osservatorio specifico su questi temi, e cominciò ad andare in onda, se non vado errato, ormai più di 5 anni fa. La trasmissione è andata avanti per 6 anni almeno, però è chiuso, diciamo, per adesso, diciamo, non è stata assente dai microfoni ormai da qualche mese, da un annetto. Ecco, no, quello che passa il tempo, mannaggia. No, mi domandavo in chiusura, dalla prima trasmissione di quell'osservatorio ad oggi, in particolar modo nella nostra città, nel nostro paese, che cos'è che è cambiato da questo punto di vista e quali sono invece i temi conduttori che in qualche modo risultano ancora attuali, fermo restando, insomma, che molto è cambiato, ma molto è rimasto anche come prima, insomma, no? Beh, sicuramente Roma è un osservatorio particolare nei termini in cui, ovviamente, rimanendo nell'alveo della tradizione italiana fascista, neofascista, che dicevo prima avere comunque una sua genealogia abbastanza ben definita, a partire dal ventennio e passando attraverso le esperienze missine, con tutte le sue poi venature più radicali. È una città che purtroppo ha offerto numerosi spunti alle declinazioni politiche di questa vera e propria galassia. Sicuramente rispetto ai primi anni di trasmissione, che erano saldamente inseriti proprio in quella, quel mio socio ovviamente ricordava essere stato il periodo della dell'equidistanza veltroniana, nella quale intorno, diciamo, a una pacificazione della memoria della città si erano comunque si era chiuso un occhio di fronte alle prime più evidenti riemersioni di un fenomeno squadrista dopo che si era chiusa negli anni 90 l'esperienza Boned, che insomma poi gli attori sono quelli, abbiamo visto i nomi di Maurizio Boccacci ricompaiono ciclicamente, pochi giorni fa è andata a giudizio la sua ultima creatura politica per associazione a delinquere, ora non ricordo, insomma comunque è andata in tribunale, ha aperto il processo per appunto per la sua ultima creatura politica, però sono nomi che ritornano. Però quelli che erano gli anni di Veltroni sono stati anche gli anni in cui i fenomeni squadristi hanno ripreso una visibilità eccezionale, con le prime cosiddette all'epoca occupazioni non conformi, con l'apertura di Casa Pound. Non ricordo, e sinceramente non è che me ne freghi più di troppo ricordare l'anno esatto, ma sono esperienze che si situano in maniera abbastanza chiara. Sono gli anni in cui Alemanno, da ministro all'epoca dell'agricoltura, calava l'Università di Roma III con qualche decina di guardiaspalle militanti che all'epoca in quell'occasione causarono anche qualche ferito e l'assoluta impunità non solo ovviamente da parte dei suoi squadristi, ma anche delle organizzazioni universitarie neofasciste che avevano organizzato quell'evento. E anche qua non ricordo l'anno, ma insomma parliamo di governo Berlusconi con Alemanno ministro dell'agricoltura, quindi ci vuole poco un po' per gli ascoltatori a risalire ai fatti, anche perché ebbe una sua risonanza. Ora forse 2006, 2005, comunque ora arriviamo, siamo appena usciti da una fase di particolare dinamismo legato al mandato di sindaco di Gianni Alemanno, che sicuramente già dal giorno della sua elezione era chiaro un segno di discontinuità importante, per quanto appunto l'Italia fosse un paese abituato a essere stato il primo paese comunitario a essere governato da un partito in una sua declinazione, cioè con Alleanza Nazionale alleata con Forza Italia, essere il primo paese a essere governato da una forza dichiaratamente in continuità con i regimi autoritari del Novecento. Ma quella di Alemanno è stata un'elezione particolare, è stata un'elezione che ricordiamo nella sua espressione più chiara. Sicuramente abbiamo avuto gli Sbardella nel ceto politico che ha contato qualcosa in questa città, ma sicuramente è la prima volta che un sindaco che faceva manifesta la croce celtica che porta al collo, in cui le espressioni più becere di saluti romani si sono avute al giorno della sua elezione, ha segnato un cambiamento che possiamo osservare poi quotidianamente. Al di là della agibilità, che è stata forse maggiore quando Storace era presidente della regione, mi verrebbe, che era appunto quegli anni in cui c'è stata una prima recrudescenza e quindi una filiera riconducibile più sotto il gran cappello di Storace, altra vecchia insomma conoscenza, ma che con Alemanno adesso permea pesantemente la gestione dei servizi. Alcuni casi sono stati svelati e sono usciti fuori, non ultimo l'importante reportage di Report relativo alla città, alle contiguità con neofascisti, a partire dal suo ex capo di gabinetto Antonio Lucarelli, ex Forza Novista, ex base autonoma e appunto poi con un ruolo di primo piano nell'amministrazione Alemanno, ma che poi è stata evidente, e la contiguità fra questi ambienti e quelli della criminalità organizzata, ma poi tutto quello che era stato il fenomeno, il caso Andrini, i vari impresentabili all'interno delle municipalizzate. Ma quotidianamente nei servizi, nelle biblioteche, in tutto ciò che rappresenta in alcuni servizi minori dell'AMA, quotidianamente alla Trambus, quotidianamente è possibile vedere quanto la partecipazione, la vicinanza di Gianni Alemanno ad ambienti della destra più radicale abbia pagato, magari non in termini appunto visibili di rappresentanza politica, ma in termini di sostegno anche soggettivo, individuale, a riempire i quadri, il sistema dei servizi. E questa cosa in alcuni contesti, come quello delle biblioteche, ha una sua valenza culturale importante. Il programma delle biblioteche per giugno e luglio delle biblioteche di Roma segnala numerosi appuntamenti di presentazione di libri. Ora sinceramente anche qua non è che mi è venuto in mente adesso, quindi invito semmai gli ascoltatori ad andare a spulciare il programma di questo giugno e luglio delle biblioteche di Roma, ma sono più di uno gli appuntamenti di presentazioni che portano la presenza del figlio di Merlino e di altri esponenti della destra neonazista della storia di questo paese. Quindi sicuramente, e per non parlare poi appunto, sicuramente c'è stato uno scollamento magari con la realtà di Casa Pound, quella più evidente dopo l'omicidio Casseri, fra uno scollamento fra quella destra istituzionale e Casa Pound, ma che Manfredi Alemanno, figlio del sindaco, sia organico a quell'organizzazione è emerso anche da una recente inchiesta sia giornalistica che giudiziaria legata a un caso di aggressione dalle parti della Camilluccia, insomma in quella Roma bene in cui loro hanno ben salde le loro radici di appartenenza. Quindi Roma è un punto, è un osservatorio decisamente particolare, è un osservatorio che va mantenuto nei termini in cui vedremo cosa succede quando riportati all'opposizione, allorché appunto i fascisti più conclamati sono riportati all'opposizione politica del Campidoglio. Non è escluso che si decida di ritornare a un'agitazione più di strada di quei temi che appunto Guido racconta da un punto di osservazione globale, ma che poi appunto nel locale hanno una forte ricaduta in quello che è il quotidiano vivere, convivere di una metropoli come quella di questa città. Benissimo, io direi di concludere qui, anche perché fra poco ci colleghiamo con Firenze a proposito di temi che abbiamo ricordato poc'anzi, perché nei mercati di Firenze, anche quando non ci sono militanti di Casa Pound che vanno a sparacchiare in giro, la situazione non è per niente tranquilla, lo racconteremo fra poco. Nel frattempo insomma ringrazio tutti voi che siete venuti qui oggi, voci tutte ben conosciute, qualcuna mancava da un po', qualcun'altra da meno, insomma avremo modo di risentirci sicuramente nella prossima stagione. Ricordiamo con il libro che l'autore si imbarazza ad autopromuoversi. Giusto. Che è Estrema Destra di Guido Calderon, che appunto da oggi si può trovare nelle librerie della New York Compton, insomma. Benissimo, grazie agli ascoltatori soprattutto di averci sopportato fin qui. Perfetto, un saluto e a prestissimo.